Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo da un lato dell'allarme lanciato da Confindustria, perché il centro studi oggi stima un danno, chiaramente sono tutte stime, ma è ovvio che più passano le giornate e più vengono rifatte le stime. Ogni settimana di stop costa lo 0,75% del PIL e si rischia un deficit al 5%, un debito al 147%. E poi è intervenuto anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e ha detto attenzione, c'è il rischio di depressione, bisogna evitare che l'ansia diventi panico. In realtà il tema che noi affronteremo oggi riguarda soprattutto come le banche possono erogare liquidità avendo però una garanzia, perché è inutile girarci attorno. Le banche, allora, il tema in questo momento è la mancanza di circolante, non di fondi, soldi per investimenti, ma del circolante e quindi della liquidità per pagare fornitori e per pagare stipendi. Ammesso anche che poi tu riesca ad avere con la cassa integrazione in deroga supplire la parte stipendi, hai comunque da pagare i fornitori e ti serve il circolante. Perché è un tema il circolante? Perché in questo momento non stai fatturando molte imprese, quelle chiuse. Vale per il mondo del commercio, vale per il mondo della manifattura e dei servizi. E quindi si dice in questo momento, in attesa che poi il paese riapra, occorre dare ossigeno, nel caso di usare questo termine, liquidità alle imprese per pagare proprio i pagamenti a brevissimo. Le banche però, se devono andare con è vero che Basilea 3 è stata in parte sospesa, però potrebbe essere un po' più rigide, perché se tu chiedi circolante, non un investimento, loro potrebbero essere costrette a accantonare del capitale, quindi a erodere del capitale nel caso tu non riesca a pagare, quindi mettere, diciamo, accantonamenti da parte. Per evitare questo cortocircuito, qui la banca tende a essere più rigida perché non vuole accantonare troppo capitale, ci sono varie strade. Quella che su cui si sta ragionando è una garanzia di Stato su questo tipo di prestiti, in modo che le banche abbiano, diciamo, nel bilancio questi prestiti effettuati come garantiti, quindi con una bassissima, quasi nulla dose di rischio, perché sono garantiti dallo Stato italiano. In questo modo verrebbero, lo dico male, ma per farmi capire, contabilizzati come un livello di prestiti molto molto sicuri e molto garantiti, con un livello di rischio simile all'investimento in obbligazioni, e quindi non obbligherebbero le banche ad accantonare capitale per questi prestiti effettuati. Lo dicono nel giorno in cui, e ne parleremo, è stato chiarito che invece sul fronte cassa integrazione in deroga le banche anticiperanno ai lavoratori un importo fino a 1.400 euro, una convenzione firmata oggi dai sindacati, il Ministero del Lavoro e l'ABI, le banche italiane, e non vi saranno costi aggiuntivi. Questo è importante perché permette di snellire la procedura. Se tu vai in banca e hai diritto all'assegno di cassa integrazione, la banca te lo anticipa. Ma questo è un fronte, e tra l'altro ne parleremo perché da domani ci sono anche le istruzioni per il bonus per i lavoratori autonomi. Dovrebbe essere un po' più alto per alcuni. Comunque adesso il tema riguarda sì l'immediato, ma anche le prossime settimane. L'obiettivo qual è? È non arrivare, lo dico con un'espressione quasi motoristica, a un motore che si ingrippa. Cioè, se qualcuno degli elementi del sistema, la catena dei fornitori, le imprese che devono pagare, le banche, si arresta, si blocca l'intero sistema. Allora, per renderlo fluido, occorre che in ogni passaggio non vi sia il rischio di appunto non avere le garanzie sufficienti. Ecco perché l'intervento dello Stato è importante. Faccio notare che in Francia lo Stato garantisce le banche che danno prestiti alle aziende per 5 anni a tassi bassi, allo 0,25%. Negli Stati Uniti 500 miliardi di dollari saranno destinati a sostenere le piccole e medie imprese, sempre attraverso un meccanismo di garanzia concesso dallo Stato, che diventa sostanzialmente prestatore in ultima istanza. Cioè, se per caso poi l'imprenditore dovesse avere un problema, non diventa una sofferenza bancaria, perché la garanzia è alla banca, la dà lo Stato. Pochi istanti fa, nel frattempo, Trump ha dichiarato che vi saranno altri 2.000 miliardi di dollari per le infrastrutture. Con i tassi di interesse a zero è il momento di realizzare un piano atteso da decenni. Nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno avuto come numero di morti, hanno superato le vittime dell'11 settembre 2001, la notizia fa specie soprattutto per il raffronto, 3.170 morti con 164.000 casi confermati. L'altra notizia sul fronte del bollettino riguarda l'incredibile aumento dei casi in Spagna, 9.000 contagiati in più in un giorno solo. Nemmeno noi siamo mai riusciti a fare una cifra di un aumento di contagiati così alta, almeno dalle serie che io ho a disposizione non c'è mai stato un giorno. Siamo arrivati a 4.400, a 4.600, ma mai a 9.000, il che porta, ahimè, il numero dei contagiati a 94.000 in Spagna. E sono 101.000, ma aspettiamo alle 18 la conferenza stampa. E il numero di deceduti, ahimè, in Spagna 8.189. Di questo parleremo. Tra l'altro c'è stata anche la conferenza stampa dell'Istituto Superiore della Sanità, ma quello che interessa a noi è soprattutto la conferenza stampa del commissario straordinario Domenico Arcuri su mascherine e respiratori. L'altro fronte che affronteremo è sempre il solito, cioè uno è un fronte interno. C'è anche l'ipotesi lanciata dal ministro Tremonti, che dice sostanzialmente bisognerà fare un prestito, un debito che mette il paese Italia a sostanzialmente quasi inesigibile, quindi con tassi di interesse, una scadenza lunghissima, con condizioni di vantaggio se volessero comprarlo investitori stranieri. È inutile attendersi una decisione di carattere europeo. Però leggeremo anche la lettera che hanno scritto, devo dire in maniera anche bipartisan, vari esponenti politici, perché c'è sì l'eurodeputato Carlo Calenda, ma c'è anche il governatore della Liguria Giovanni Totti, Marco Bucci sindaco di Genova, Stefano Bonaccini governatore della Emilia Romagna, Luigi Brugnaro sindaco di Venezia, Emilio Del Bono sindaco di Brescia, Giuseppe Sala sindaco di Milano, Giorgio Gori sindaco di Bergamo, Francesco Italia sindaco di Siracusa. L'hanno scritta sulla Frankfurt Allgemeine Zeitung, hanno pubblicato a pagamento un annuncio in cui ricordano due cose, poi la leggerò. Da un lato che l'Olanda, che capeggia il gruppo dei paesi, è diciamo il paradiso fiscale concorrenziale e drena risorse agli altri paesi dell'Unione Europea, e questo non sarà una colpa dell'Olanda, però mi chiedo anche quanto si possa accettare che ci sia un paese o dei paesi, ma l'Olanda ha un peso diverso da Lussemburgo, e almeno Lussemburgo non si è opposto, che drenano risorse fiscali diventando di fatto dei paradisi fiscali per imprese anche italiane, e dall'altro però si permettono di essere così spocchiosi quando c'è da condividere non i debiti. Nessuno vuol far pagare i nostri debiti agli olandesi, quelli che dovessimo accendere come debiti per eventuali corona bond, ma si tratta di dare una garanzia di questi debiti a livello europeo, in modo che la speculazione non si concentri sul paese che ha sottoscritto queste obbligazioni. Ma la lettera ricorda anche cosa capitò al debito della Germania, ed è giusto ricordarlo. Quale fu il debito del 45 e cosa decisero di fare i paesi, tra cui anche Francia, Italia, Spagna e Belgio, di dimezzare il debito. Aggiungo io che poi Kohl non lo pagò proprio il debito che per esempio aveva nei confronti della Grecia negli anni 90, quando ci fu la riunificazione. I tedeschi è giusto che si ricordino di questo, e ha fatto bene a mio avviso questo gruppo di sindaci e governatori così a pubblicare la lettera su Frankfurt Allgemeine Zeitung. per ricordare, insomma, attenzione, e ricordando anche come gli eventuali Eurobond o Corona Bond non vanno a cancellare o mutualizzare i debiti pregressi, vanno a dare una garanzia solo sui il pagamento dei debiti futuri, ma non vuol dire che se un paese ne usa 100 miliardi va a spalmare questi 100 miliardi. Parleremo di questo perché oggi su Sole 24 Ore c'è un'analisi di Giampaolo Galli e Lorenzo Codogno che dice vabbè, andiamo verso un MES con delle condizionalità molto sbiadite, tanto non otterremo mai Corona Bond o gli Euro Bond. Quindi ci sono diversi approcci, l'ex ministro Tremonti che dice sostanzialmente dobbiamo varare un prestito nazionale che possono sottoscrivere anche all'estero con tassi di rendimenti accettabili, ma è un prestito talmente differito nel tempo che diventa quasi, diciamo, un prestito in qualche modo inesigibile. Però io non mollerei, capisco lo scetticismo di Tremonti, lo avremo ospite anche, ma non mollerei il tema dell'Europa, non fosse altro che per un problema di principio, oltre che un problema di copertura economica. E di questo parleremo nel giorno in cui le borse oggi sono tutte sostanzialmente, tranne Parigi che perde mezzo punto, Francoforte più 0,50, Londra più 0,50, l'America più 0,16, Milano più 0,30, recupera molto Atlantia più 7,40, Eni più 5,50, Buzzi più 4,80, Azimut più 3,20 come Telecom, il 2,70 lo guadagna Unipol, il 2,30 Fiat, ma anche Biper, il 2% di Assorin e Italgas, il 2% ST Microelectronics, negativa Prismian del 4%, Salvatore Ferragamo del 3,40, Banca Mediolanum del 3%, Moncler del 2,90, come Unicredit, il 2,5% è il calo di Pirelli, il 2,40 del Banco BPM e dei Finecobank, ricordati meno 2,30 Poste, meno 2%, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, le previsioni per quello che contano di Goldman Sachs, che prevede una contrazione dell'economia americana del 34%, il PIL statunitense dovrebbe fare meno 34% nel secondo trimestre e il tasso di disoccupazione schizzare entro metà dell'anno al 15%. Ricordo che la disoccupazione americana era l'ultimo dei problemi, viaggiava tra il 6 e 7%, quindi vuol dire più che raddoppiato. Le compagnie aeree, il rosso è più o meno di 39 miliardi di dollari la perdita nel trimestre per le compagnie, lo stima la IATA. E ancora i voli in Europa hanno un nuovo record negativo, sono 26.856 in meno rispetto al 2019. La von der Leyen ha detto che le misure di emergenza rispettino i valori dell'Unione Europea. Non capisco, della massima importanza che le misure di emergenza non vadano a discapito dei valori fondamentali. Si riferiva a Orban, certo. La democrazia non può funzionare senza media liberi, rispetto della libertà di espressione e certezza del diritto. Salvini continua a difendere Orban e dice la polemica in Italia è surreale, ma a me, in questo momento Orban è un problema degli ungheresi, lo siete votati. E tenetevelo, cosa devo dire? Cioè, è chiaro che da un punto di vista di chi ama la democrazia, quello, i poteri speciali che ha chiesto Orban ieri fanno accapponare la pelle. Non mi si faccia paragoni, per favore, con l'Italia, la Francia o la Spagna, i DPCM d'urgenza. Dai, non scherziamo. Ancora sì, no, scusatemi, forse c'è stato un errore nella mia comunicazione. Ho detto che la disoccupazione americana, che era stimata precedentemente da Goldman Sachs tra il 6 e il 9%, 6, 7, 8, 9%, adesso la vede al 15%. La disoccupazione americana viaggiava, se non ricordo male, tra 3-4,5% adesso a memoria, però è Goldman Sachs che ha raddoppiato la stima sulla disoccupazione americana. Vabbè, nel frattempo l'Olanda non cambia la linea, mentre il ministro di finanza tedesco Olaf Scholz ha detto che il MES è lo strumento che può permettere di facilitare i compiti degli stati. Sì, il problema è le condizioni che poni, perché è ovvio che la banca mi può prestare soldi se sono in difficoltà, ma se pone delle condizioni in cui io di fatto poi divento commissariato, non mi va bene. Cioè è diverso, in questo momento non è un errore mio, vado in banca e allora giustamente la banca dice: tu non hai saputo gestire la tua azienda, ti do una linea di prestito ma voglio delle mie persone nel consiglio di amministrazione dell'azienda perché non mi fido più di te, Barisoni, ok, e io ti chiedo i soldi e tu di fatto mi commissari in parte l'azienda mettendo degli esponenti della banca nel consiglio di amministrazione. Questo avviene regolarmente ed è anche giusto che sia così. Se io ho commesso degli errori devo chiedere soldi da un'istituzione, è giusto che l'istituzione si cauteli, ma qui gli errori non li ho commessi io, non li ha commessi l'imprenditore. È arrivato uno tsunami pandemico, non si può trattare l'Italia, la Spagna o la Francia come se avessero commesso errori nella gestione, ma è più facile metterglielo in testa che in altri punti, come dicono a Brescia, perché anche il ministro olandese Fubke Hoekstra, sommerso delle critiche anche nel suo paese, ha ammesso: ho mostrato troppo poca empatia, avrei dovuto fare di meglio. La nostra posizione sul corona bond è ferma, ma non quella sulla solidarietà. Sì, però posso dire che noi abbiamo un bellissimo esempio di frasi che vogliono dire tutto e niente, perché cosa vuol dire no ai corona bonds e però sì alla solidarietà, ho sbagliato ad avere poca empatia? No, caro ministro olandese, lei sta sbagliando nel non capire il tema, nel non capire che qui la partita è più ampia, è una partita di carattere europeo. Dire sì, cioè no ai corona bond, ma la mia empatia c'è, la mia solidarietà c'è, a me ricorda, vogliamo vedere in modo solidale che cosa è razionale e ragionevole, a me ricorda una cosa sola. Terapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befalina, come antifurto per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioco. È difficile tradurre in olandese la supercazzola, però insomma di questo stiamo parlando. O vediamo cammello, o vediamo degli strumenti veri, o continuare a dire forse sono stato troppo empatico. Non me ne frega nulla dell'empatia degli olandesi, che pensassero ai loro casi, che ne hanno e come, e anche purtroppo defunti. Che ci chiarissero se hanno intenzione di essere il paradiso fiscale europeo, e anche qui l'Europa dovrebbe battere un colpo su questo, perché chiaramente drenano risorse anche di welfare. Non ce l'ho nulla di illegale, le aziende che lì sono andate a pagare le tasse con le sedi legali, per carità, lo possono fare, però poi ogni paese ha diritto anche di tutelarsi, se questo è il tipo di, diciamo, comprensione della situazione che arriva dall'Olanda. Allora, lo spread è a 197 punti, l'asta di BTP a 10 anni è andata all'1,48%, in rialzo il rendimento, tutti collocati 7 miliardi e 750 milioni di BTP e collocati anche i BTP a 5 anni. Il tasso del decennale aprile 2030 è salito da 1,29 a 1,44%. L'inflazione rallenta a marzo, ma del resto 0,1%. Per quello che riguarda le stime di Confindustria, adesso vi arriviamo, sulla perdita nel PIL nel semestre, meno 10% stima di PIL nei primi sei mesi dell'anno il centro studi di Confindustria. Volevo però arrivare su alcune notizie. La prima è la convenzione, il tema mascherine. Allora, perché ha parlato il commissario straordinario Domenico Arcuri, mentre ho visto una notizia che il gruppo assicurativo Generali ha fatto un'ulteriore operazione con l'acquisto per la protezione civile di circa 20 milioni di mascherine professionali, la prima fornitura in 2 settimane, la seconda in 3 settimane, investimento complessivo di circa 28 milioni di euro, di cui 14 milioni impiegati dalla protezione civile, altri 14 milioni di mascherine, scusatemi, non di euro, messe a disposizione attraverso il Fondo Sanitario Internazionale. Qualcuno dice: ma le mascherine arrivano tardi? No, guardate che visti i tempi di quello che sarà l'unlocking, cioè l'uscita dall'emergenza, tutti ci dicono che anche quando saremo fuori dall'emergenza e potremo tornare a circolare, bisognerà portare la mascherina. Non arrivano tardi, ne serviranno nei prossimi mesi sempre di più. L'Italia, ha detto il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa, ha detto: abbiamo acquistato 300 milioni di mascherine. Abbiamo in questi giorni acquisito 300 milioni di mascherine che arriveranno progressivamente presso i magazzini della protezione civile e verranno puntualmente distribuite con un criterio concordato con la totalità delle regioni di destinazione. Utilizziamo aerei del Ministero della Difesa e anche di Leonardo, e utilizziamo personale della difesa che si muove anche su gomma. Così Arcuri sulle mascherine. E allora, e poi la cassa integrazione, l'accordo tra ABI e parti sociali, dopo un lungo confronto anche col ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, si è arrivati a un accordo. Quindi è stato firmato un accordo tra le parti sociali e l'associazione delle banche italiane. Cosa scopiterà? Da aprile, l'ho detto la ministra Catalfo, rifinanziamo e allunghiamo la cassa integrazione. Ma la cosa importante di questo accordo è che le banche anticiperanno ai lavoratori la cassa integrazione fino a 1.400 euro in modo e non vi saranno costi aggiuntivi. Sentiamo la Catalfo sul rifinanziamento della cassa integrazione. La cassa integrazione nel primo decreto, nel decreto marzo, l'abbiamo prevista per 9 settimane. Io conto di comunque nel decreto, col decreto aprile, di rifinanziarla in modo importante e, laddove necessario, di ampliarla ad ulteriori settimane. E poi il ministro all'economia Stefano Patuanelli a Radio 24 questa mattina ha detto: entro Pasqua arriveranno i primi assegni della cassa integrazione da parte delle banche dopo l'accordo firmato tra banche e sindacati. Ciò che conta è il tempo in cui queste misure dispiegano gli effetti. Non potevamo pensare di attendere mesi per poter pagare la cassa integrazione alle persone che oggi sono a casa e che non lavorano e che hanno quella come fonte di sostentamento. Quindi c'è stato un ottimo lavoro fatto dalla ministra Catalfo assieme ad ABI e alle parti sociali. Attraverso questa convenzione, questo accordo, di fatto entro Pasqua ci sarà l'erogazione del primo assegno della cassa integrazione. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento da un lato il collega del Sole 24 Ore Dino Pesole. Buonasera Dino. Buonasera Sebastiano. E dall'altro grazie anche alla direttrice generale della Confindustria Marcella Panucci. Buonasera. Sì, buonasera a lei. Allora, faccio ascoltare ancora due cose in tema di emergenza e poi vengo all'aspetto più di medio termine. Perché al di là dell'accordo molto importante tra parti sociali, banche e ministro per l'erogazione della cassa integrazione, sono arrivate anche le istruzioni INPS per chiedere il bonus per i lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati continuativi, lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo. Allora, l'indennità di 600 euro non è, per l'indennità non è prevista alcuna contribuzione figurativa, aggiungo io, ci mancherebbe. Comunque è erogato dall'INPS previa domanda anche con il PIN semplificato e potrà essere presentata da domani. Allora, il tema degli 800 invece che dei 600, per 5 milioni e mezzo di lavoratori autonomi, partite IVA, collaboratori, vale 5 milioni e mezzo di persone. Il governo nel decreto di aprile sta pensando di aumentare l'indennità, portandola a 800 euro per aprile e maggio, ma l'assegno di marzo, da quello che si è capito, resterebbe a 600 euro. E poi c'è il reddito d'emergenza, su cui vorrei ascoltare di nuovo il ministro Catalfo, proprio su dove sta andando il governo quanto al reddito d'emergenza, che in sostanza deve servire una specie di reddito di inclusione per i lavoratori, che lo sappiamo, adesso nessuno vuole tutelare e coprire il nero, però sappiamo che esistono forme di lavori saltuari in nero, e lì sappiamo che si rischia, soprattutto in alcune regioni, di avere un impoverimento e una tensione sociale enorme. La Catalfo sul reddito di emergenza. Abbiamo già stanziato 400 milioni, soldi appunto freschi che vanno direttamente ai comuni per poter affrontare nei primi giorni direttamente l'emergenza alimentare di alcune famiglie italiane, e contemporaneamente io sto lavorando su una misura sul reddito di emergenza che possa far arrivare reddito in modo anche molto semplice, con delle procedure semplificate, a tutte le famiglie. Questo verrà inserito nel decreto di aprile, cioè adesso, e così avranno tutte le famiglie, in modo molto celere, avranno la possibilità di avere dei soldi e di poter appunto provvedere a tutto quello che sono le emergenze. Allora, Dino Pesole, poi arriviamo all'allarme lanciato da Confindustria, ma mi sembra che in questo momento si stia lavorando sul fronte economico su due fasi. Una è quella emergenziale, i 600 euro, il sito dell'INPS che si è impallato, me lo segnalano gli ascoltatori, non so cosa farci, e i 600 euro da un lato e la cassa integrazione in deroga dall'altro e l'accordo con il mondo bancario. L'altro fronte riguarderà invece come non far affogare le imprese in assenza di liquidità, perché se non fatturi, qualunque impresa tu sia, un bar, un'impresa commerciale di servizi, a maggior ragione manifatturiera, non riesce a pagare i fornitori. Dino. Già, e questo è il punto fondamentale, cioè i provvedimenti di emergenza sono quelli che avete raccontato, e sì, si può ragionare sull'entità delle risorse messe in campo. Per ora sono attivi 25 miliardi del primo decreto, ne arriveranno altri 30 col decreto di aprile, certamente somme importanti ma sicuramente non sufficienti per far fronte a questa emergenza così clamorosa, così grave. Certamente l'emergenza si combatte con provvedimenti di emergenza, e quindi va benissimo la convenzione che è stata fatta con l'ABI, perché è fondamentale anticipare e accelerare al massimo i tempi per il pagamento sia della cassa integrazione ordinaria che di quella in deroga, e va benissimo il coinvolgimento delle banche. Anche i 400 milioni di sblocco ai comuni per l'emergenza alimentare va in quella direzione. Adesso si tratta di individuare, ma questo va fatto anche con un confronto serrato in sede europea, strumenti immediati per assicurare liquidità immediata alle imprese e alle attività produttive, e qui però i stanziamenti in campo sono molto molto ingenti, quindi occorre un pressing fortissimo con l'Europa, che siano i bond o siano altri strumenti, ma insomma qui l'Europa deve entrare in campo, perché non credo che potremo farcela da soli. No, e quello è il tema che affronteremo nella seconda ora anche con Lorenzo Codogno, alla luce anche della lettera pubblicata da, come dicevo, sindaci, governatori, da Calenda, sul Frankfurt Allgemeine Zeitung. Direttrice Panucci, nella fase, chiamiamola così, 2, nel senso non la fase 1 che stiamo vivendo, quella di mettere in tasca, di non far uscire soldi dalle tasche degli italiani e dare dei soldi, perché vedo anche oggi notizie di tensioni molto forti in alcune aree del nostro sud. So benissimo, nessuno vuole tutelare il nero, lo dico agli ascoltatori, però è inutile girarci attorno. Se tu hai il reddito di cittadinanza, puoi anche estendere questo reddito a un reddito di emergenza, il che non vuol dire dare soldi pubblici perché uno non sta più incassando in nero, ma se tu hai una condizione oggettiva di difficoltà economica, da qualche parte la devi prendere prima che parta l'assalto ai supermercati. Però dicevo, la fase 2 significa anche creare una rete di protezione attorno alle imprese. Qui non è solo tenere i soldi, non fare spendere i soldi o dare un'integrazione per quanto parziale in busta paga. Panucci. Questa in realtà dovrebbe essere fase 1, anzi forse fase 0, quella di garantire liquidità alle imprese, perché lei giustamente diceva non bisogna drenare dalle imprese la liquidità che c'è, ma che si sta esaurendo, perché chiaramente questo blocco ormai va avanti da tempo, e quindi benissimo i provvedimenti di ammortizzatori sociali, le sospensioni fiscali e contributive dei pagamenti, che però sono ancora molto molto limitate e vanno estese a quelle imprese che stiano subendo cali decisi di fatturato o che fatturino zero. Però la verità è che qui, se noi non sosteniamo la liquidità delle imprese, purtroppo molte di quelle che oggi sono chiuse rischiano di non riaprire, ma anche quelle che sono aperte stanno sperimentando difficoltà enormi, perché non ricevono i pagamenti magari dai loro clienti. Di oggi proprio l'appello del presidente Boccia a tutti gli imprenditori italiani di onorare i propri impegni contrattuali e pagare i fornitori, altrimenti si innesca davvero una spirale viziosa. È evidente che però le imprese devono essere messe in condizione di pagare, per questo noi stiamo spingendo moltissimo sul sostegno all'accesso al credito. Le banche devono erogare il credito, ma è chiaro che le banche hanno delle regole molto stringenti e che per farlo hanno bisogno che le imprese siano garantite, per cui in questa fase bisogna davvero buttare il cuore oltre l'ostacolo e investire risorse importanti sui sistemi di garanzia pubblica a sostegno di tutte le imprese, non soltanto le piccole e le medie, che ovviamente sono quelle più fragili, ma anche le grandi imprese. Cioè, in questo momento l'investimento prioritario più importante da fare è proprio sulla liquidità e sul credito alle imprese. Allora, io, da quello che capisco io, qui mi sembra che l'importante sia, al di là appunto di non avere situazioni anche di tensione sociale, non interrompere, che non si blocchi l'ingranaggio, e cioè se tu inizi a non pagare i fornitori, poi i fornitori a loro volta vanno in difficoltà, e lì l'appello che ho visto oggi del presidente Confindustria è a, diciamo, essere molto responsabili. Voglio dire, se tu hai difficoltà è un conto, ma interi settori in questo momento, per esempio penso all'alimentare, ora GDO non hanno motivo per non pagare i fornitori, quindi cerchiamo per favore di essere molto seri e responsabili. Però se tu interrompi un meccanismo di questo, del circolo, si blocca tutta la macchina, ed è lì appunto la necessità di avere una di fare in modo che le banche eroghino prestito, ma non mettere le banche in difficoltà, perché anche loro sono imprese. Dopo il metro e la pubblicità, vorrei sapere dalla direttrice Panucci cosa ne pensa del modello francese, che in Francia hanno approvato un modello in cui le banche danno prestiti alle aziende per 5 anni a tassi bassi allo 0,25%, ma lo Stato garantisce. L'obiezione che alcuni fanno è: ma in questo modo si rende più facile non pagare la banca, perché tanto c'è la garanzia statale. Dopo il meteo, la risposta 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta, chiarisco a alcuni ascoltatori, non è che le banche paghino la cassa integrazione, le banche anticipano in modo da rendere più veloce il meccanismo la cassa integrazione, che è a carico dello Stato. Su 25 miliardi di manovra, 16 se ne vanno per la cassa integrazione, anche quella in deroga. Direttrice Panucci, dicevo, che ne pensa del meccanismo francese? Perché tutti hanno copiato noi. Sulle misure di emergenza, anche noi potremmo magari guardare quello che fanno gli altri su altre misure. E che cosa obietta chi dice: ma in questo modo si abbassa il rischio, o meglio, c'è la tentazione quasi che, siccome garantisce lo Stato, io posso anche non ridare i soldi all'impresa, si abbassa il livello, diciamo, di attenzione sul prestito. Ma no, ma questo mi sembra un'obiezione non corretta, nel senso che lo Stato si vale sul debitore, quindi non, certo, non è un tema. E peraltro i sistemi di garanzia operano da decenni e sono quelli che vengono utilizzati normalmente quando c'è una crisi di liquidità. Sono stati uno strumento importante anche durante la crisi finanziaria del 2008 e diciamo che poi proseguita purtroppo per lungo tempo in Italia. Il modello francese è un modello non particolarmente originale, nel senso che va bene, però è un modello che noi potremmo tranquillamente attuare, perché prevede la possibilità di concedere dei prestiti con un tasso di interesse molto ridotto e garantiti dallo Stato, che le imprese cominceranno dopo un anno. Vedete che la stiamo perdendo, un attimo, purtroppo guardate, non è colpa nostra, ma come immaginate in questo periodo le linee telefoniche sono leggermente intasate. Vediamo se abbiamo ripreso la direttrice Panucci, pronto? Io vi sento. Ecco, perfetto. Dicevo, un modello ecco. Per cui tu inizi a ripagare dopo un anno, capito bene? Inizi a ripagare dopo un anno, quindi consente effettivamente di far fronte alle esigenze di liquidità breve che hanno tutte le imprese in questo momento e che noi abbiamo proposto e richiesto che siano affrontate nel nostro documento del 20 marzo scorso, con una restituzione che è non soltanto posticipata nel tempo, ma che secondo noi dovrebbe essere dilazionata e prolungata. Noi abbiamo parlato di liquidità breve da garantire alle imprese attraverso prestiti, quindi finanziamenti bancari garantiti dallo Stato, da restituire addirittura fino a 30 anni. In questo modo si consente alle imprese innanzitutto di onorare i propri debiti, perché le imprese non vogliono avere, diciamo, soldi gratis, ma li restituiscono, ma di restituirli in un periodo di tempo sufficiente per non mettere a repentaglio la loro continuità aziendale in una fase in cui questa è fortemente a rischio. E però mi sembra evidente che, insomma, la cosa più importante, figuratevi, la più è lunga la durata, meglio è, però sia la garanzia statale, in modo che la banca non debba andare a fare valutazioni. Questo è fondamentale, cioè, perché la banca consente alla banca di accantonare meno capitale di vigilanza e quindi di rispettare i requisiti patrimoniali, fermo restando che una delle decisioni più opportune prese di recente è stata quella di sospendere Basilea 3 e quindi dare un rifiato alle banche, che poi ovviamente si riflette sulle imprese, perché lei lo evidenziava giustamente prima quando dice che tutto il sistema è collegato, cioè se il commerciante non paga il proprio fornitore industriale, il fornitore industriale non avrà i soldi per pagare i propri fornitori e per restituire i prestiti alle banche, quindi si inceppa tutto. Noi in questo sistema dobbiamo mettere là dove necessari, chiamiamoli cuscinetti o cuscinoni in funzione delle risorse richieste, però per evitare che il meccanismo in questa fase si inceppi, quindi che continui a funzionare e che venga accompagnato a uscire da questa emergenza sanitaria ed economica e a poter continuare a funzionare da solo senza sostegno di questo tipo una volta superata. Quindi è importante in questa fase, per questo le dicevo all'inizio, non è una fase 1-2, adesso è la fase 0, cioè noi dobbiamo agire immediatamente con questi strumenti, altrimenti il rischio è che l'impatto sul sistema economico sia irreversibile. Allora, chi mi dice ma come fa a reggere l'industria bancaria con tassi, mi immagino che il riferimento sia quello francese, lo 0,25%, dico attenzione, qui stiamo parlando, se ho ben visto il modello, dei prestiti che ti servono a breve, non stiamo parlando di investimenti che l'impresa può sempre chiedere per piani di investimento a 5 anni, e lì è un'altra trattativa con la banca, per il circolante. Dopodiché devo anche aggiungere, tutti dobbiamo fare un sacrificio, probabilmente la banca avrà dei margini molto molto bassi su quella roba lì, per non dire quasi nulli, ma non è il problema in questo momento. La BCE ha invitato le banche vigilate a non distribuire dividendi, a non fare piani di buyback, cioè in questo momento tutti quanti devono immaginare che non faranno dei grandi margini, ma l'importante è che il sistema non si ingrippi o peggio ancora collassi. Un'ultima domanda, poi passo di nuovo a Dino Pesole, direttrice Panucci. Voi avete oggi diffuso dei dati del Centro Studi Confindustria in cui il deficit è al 5% quest'anno e il debito al 147%, con un barlume di speranza, nel senso, ok, dite l'impatto sarà almeno pari a quello del 2009, però vi potrebbe essere con determinate misure una resilienza, cioè una resistenza dell'occupazione. Questo sì, lo diciamo, e diciamo che l'occupazione potrebbe arrivare all'11,2 dal 9,9 attuale e poi ritornare intorno al 10, però a condizione che vengano messe in campo una serie di misure, a partire appunto dagli ammortizzatori sociali, che consentono di preservare i posti di lavoro, perché il rischio in questo momento più forte è che le imprese chiudano, non riaprano, abbiano forti cali di fatturato, quindi perdiamo base industriale con la conseguenza di perdere posti di lavoro. Perciò sono importanti sicuramente le misure che lei citava di sostegno alle fasce deboli della popolazione, però è altrettanto importante evitare che si origini nuova disoccupazione, quindi mantenere i posti di lavoro. Senta, in tutto questo l'Europa interviene come? Perché questo riguarda una partita di giro, diciamo così, italiana, interna all'Italia, allo Stato italiano. Interviene come ulteriore garanzia a quello che sarà l'esborso dello Stato, lo dico in maniera un po' superficiale ma per farmi capire, cioè voi quale immaginate sia poi il ruolo dell'Europa, ammesso che vi siano i corona bond o altre forme di garanzie? L'Europa per noi deve essere acceleratore delle politiche che stanno mettendo in campo i diversi Stati membri in questa fase, quindi andare laddove gli Stati membri non possono arrivare. sia in termini di capacità fiscale che di efficacia degli strumenti che gli membri possono adottare, perché uno Stato membro adotta uno strumento che ha una pura, diciamo, applicazione a livello nazionale. L'Unione Europea deve applicarli a livello transnazionale. Allo stesso tempo lo Stato membro ha comunque una capacità fiscale limitata, anche chi ha grande capacità fiscale in questo momento come la Germania, però non può andare al di là di certi limiti. Per queste ragioni servono strumenti che consentano di raccogliere e impiegare liquidità, ma liquidità imponente che nessuno Stato da solo potrebbe, diciamo, affrontare. Per questo noi parliamo di Covid bond, o come vogliamo chiamarli, piuttosto che nel nostro documento abbiamo parlato di accesso al MES senza condizionalità, perché questo è un periodo, certo, diciamo, straordinario, purtroppo in senso negativo, e gli strumenti convenzionali bastano, perché sono stati pensati anche nei trattati per situazioni completamente diverse. Si poteva immaginare una crisi economica anche di impatto molto rilevante, paradossalmente si possono immaginare eventi di guerra, ahimè, ma non si poteva immaginare un evento di questo tipo, che però nelle sue conseguenze è paragonabile a un conflitto. Allora, grazie anche a Marcello Panucci, direttore generale della Confindustria. Dino Pesole, alla luce di quello che ha appena detto anche la direttrice generale di Confindustria, mi sembra di capire che c'è, appunto, io parto di fase 1, fase 2, diciamo di due partite. La partita interna è appunto il ruolo delle banche nell'anticipare la cassa integrazione in attesa che arrivino i soldi dallo Stato, l'accordo che bisognerà fare tra banche con una garanzia dello Stato per erogare crediti in maniera facile senza chiedere le garanzie, perché già te lo dà lo Stato. Il tema dei 600 euro che dovrebbero diventare 800 euro con il decreto di aprile. Il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, nessuno vuole difendere il lavoro in nero, però vogliamo, diciamo così, che serve in questo momento anche un reddito di emergenza per alcune categorie. E poi c'è la partita completamente europea, su cui mi sembra che sì, vi siano tante proposte, ma anche molto scetticismo. Il governo in questo momento, diciamo, abbiamo letto anche di qualche differenza di vedute tra Gualtieri e Conte. Allora, il governo sta provando a forzare in sede europea, sappiamo che entro il 7 aprile più o meno dovrebbe arrivare una nuova ipotesi di compromesso o di soluzione, come la vogliamo individuare, a livello di Eurogruppo, che poi dovrebbe essere trasferita ai capi di Stato e di governo. Quindi si può immaginare che entro il 10 aprile ci sia una risposta europea, e devo dire anche in tempi non proprio brevissimi, perché l'emergenza richiederebbe decisioni ad horas, ma in ogni caso questo è il timing. Allora, il governo italiano sta provando a spingere, anche se è consapevole che è molto complicata la partita dei corona bond, o come vogliamo definirli, vale a dire l'emissione di titoli di bond europei garantiti dagli stati, diretti al sostegno delle attività produttive dei paesi membri e per dare un supporto ai sistemi sanitari. Come sappiamo, da questo punto di vista si registra la ferma opposizione della Germania e dell'Olanda, con qualche sfumatura nelle ultime ore di apertura da parte della Germania, ma in subordine, e qui c'è anche una proposta che è stata avanzata dal Presidente del Parlamento europeo Sassoli, ma è sostenuta anche dall'Italia, devo dire dall'intero governo, dal Parlamento, che è quella di ricorrere al famoso fondo salva stati, che è vero che è stato concepito nel 2012 per far fronte a crisi di singoli paesi finanziarie, cioè di difficoltà di accesso ai mercati per finanziare il proprio debito, ma in questo caso si potrebbe immaginare una lettura più estensiva o più intelligente, se vogliamo, di quel meccanismo, togliendo le condizionalità, perché questo mi sembra fondamentale, e quindi estendendola a tutti i paesi europei. Questo si può fare, però appunto occorre una volontà politica che al momento mi sembra non ci sia. Questo vorrei sentirti dopo il traffico. Abbiamo il traffico, qualcuno mi dice perché avete il traffico? Perché ci sono ancora gli autotrasportatori che circolano per il paese, e meno male che circolano, grazie anche a loro, e riforniscono le città di generi di prima necessità di qualunque tipo e non solo. Traffico e poi l'ultima domanda sulle posizioni del governo. Focus Economia. Allora, Dino Pesoli, abbiamo visto anche l'intervento del ex ministro Tremonti che dice: guardate, è inutile illudersi, meglio che l'Italia lanci un prestito soprattutto rivolto agli italiani, un'obbligazione a lunghissima scadenza con un tasso di rendimento interessante che non può essere poi tassata in futuro, e aperta anche sottoscrizioni estere magari con agevolazioni. Cioè Tremonti sembra dire, lo dice esplicitamente, non illudiamoci che dall'Europa possa arrivare un aiuto a meno che non sia vincolante. Le posizioni dentro il governo? Allora, sì, è vero che il tema fondamentale riguarda le condizionalità, ma è altresì vero che si deve arrivare a una soluzione condivisa, perché mi sembra molto complicato immaginare. Sento un po' male Pesole, vediamo se riusciamo a sistemare un attimo il microfono e il volume. Sì, sono, giornate molto difficili per la linea telefonica, chiedo venia agli ascoltatori. Prego Dino. No, dicevo che sembra comprensibile la proposta del professor Tremonti, anche se mi sembra complicato immaginare che l'Europa, i governi, dico, non Bruxelles, non diano una risposta a una crisi di questo tipo. Quindi io credo che a una soluzione di compromesso si arriverà. All'interno del governo sono posizioni differenziate, ma da questo punto di vista credo che si vada tutti nella stessa direzione. Se si fa ricorso al fondo salva stati, devono togliersi, devono sparire dal campo le condizionalità, cioè le condizioni per ottenere quelle linee di credito, di finanziamento, perché a questo punto sennò scatterebbero le clausole che abbiamo visto tristemente applicate alla Grecia o a quant'altro. Quindi credo che da questo punto di vista si possa trovare un'intesa larga in Parlamento, a patto che anche in Parlamento si ragioni, e vedo che ci sono posizioni differenziate, si ragioni sulla stessa linea. Oggi vedo che Salvini propone l'emissione di un bot di guerra, non capisco bene come questo si dovrebbe articolare, limitato solo agli italiani, che domani ne parlerà con Conte. Sì, però il problema in questi strumenti, e lo dico a chi mi scrive, per carità, è che però espongono l'Italia a un grossissimo rischio, una volta finita l'emergenza, della valutazione dei mercati, perché ho capito che sono garantiti, diciamo, ce li compriamo noi, bot di guerra, ma comunque è sempre debito che lo Stato ha emesso. Mentre a parte che sarebbe mortificante, io non è che abbia cambiato idea sull'Europa, ho sempre chiesto un'altra Europa in questi anni, più Europa, non meno Europa, e infatti vediamo che siamo qui a chiedere un meccanismo europeo. Mortificante sarebbe se l'unica cosa in grado di partorire Bruxelles fosse il topolino, dire beh, un MES un po' ammorbidito, altro non abbiamo, perché allora vuol dire che non te ne fai nulla di questo tipo di Europa. Comunque grazie anche a Dino Pesole in collegamento con noi, e adesso andiamo sul GR24. Sono già usciti i dati sulla Lombardia, non sono negativi, c'è stata una riduzione sia dei ricoveri che si sono liberati posti in rianimazione, non tantissimi, c'erano 1330 pazienti ieri, oggi sono 1324, 6 in meno, e comunque rallentano i contagi almeno in Lombardia, e anche i deceduti che sono stati 381, ieri 458, l'altro ieri 416. GR24. Radio 24 è sempre con te, ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi ancora di più. Resta a casa, noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video, con contenuti speciali creati apposta per te che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione si sente. Si sente. Focus Economia. Di 18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Poco fa i dati della Protezione Civile. Allora, sono 2107 i nuovi positivi al coronavirus. Il dato è oggettivamente buono perché vuol dire una crescita del 2,7% su ieri, quando furono 1648 e crebbero del 2%. Perché lo dico? Perché nell'ultima settimana, o meglio da domenica 22 marzo, la crescita dei contagiati giorno per giorno è sotto il 10%, 9% domenica, l'8% lunedì, il 7% martedì, 6% mercoledì, 8% giovedì scorso, 7% venerdì, 5% di crescita sabato, 5% di crescita domenica, 2% di crescita ieri e 2,7% di crescita oggi. Il numero dei deceduti invece è più 837, con un aumento del 7%. Non sta calando, lo dico subito, ieri erano 812, il giorno prima 756, 889 sabato i decessi. Resta invece sostanzialmente in linea l'incremento, che è in calo, dal 12% di venerdì nei decessi al 10% di sabato, all'8% nei decessi di incremento domenica, 8% anche lunedì e oggi 7%. I guariti sono 1109 in più di ieri. E ancora stavo guardando poi la Lombardia, che segnalava appunto un miglioramento invece nell'andamento dei contagiati. Quindi un po' come ieri si conferma un aumento molto basso dei nuovi contagiati, e che questo permette di avere meno pressione sulle strutture ospedaliere, anche perché, ripeto, sappiamo che più o meno si sa benissimo che la percentuale su 100.000 è un conto e su 1.000 è un altro, mi scrive un ascoltatore, ma a noi interessa la percentuale perché il valore nominale non ti dice niente in questo momento. 2.000 casi nuovi rispetto a 10.000 casi sono una cosa, 2.000 casi nuovi rispetto a 100.000 casi sono un'altra, esattamente quello per... La ringrazio per invitarmi a tornare a scuola, ma non mi sembra... sono chiuse le scuole, guardi. Ci tornerò appena riaprono. Però ci interessa la percentuale perché ti dà l'andamento della curva, obiettivamente. Quello che non sta calando sono i morti come andamento, e la percentuale è un po' più bassa, però da questo punto di vista l'incremento è importante, dicevo, perché sappiamo che più o meno la metà dei nuovi casi vengono ricoverati e più o meno il 10% di tutti i nuovi casi finisce in terapia intensiva. Ecco perché è importante che vi sia una progressione molto più bassa, tant'è che la Lombardia ha fatto sapere che ci sono 6 posti in meno occupati, che non è tantissimo, mi rendo conto, in terapia intensiva rispetto a ieri, ma sono sempre 6 posti in meno e non in più. Questo per quello che riguarda i dati diffusi dalla Protezione Civile. Dunque, sto guardando, la Lombardia ha detto che sta valutando un'app per tracciare il contagio. Devo dire, notizie positive arrivano anche dal Lazio: per la prima volta la crescita è al 6%, 181 casi in più di positività. È molto importante il Lazio perché è la regione, insomma, che tutti guardiamo sulla tenuta, sulla capacità di tenuta. E per quello che riguarda, eccolo qua, 24 guariti in Lazio, il trend di crescita è sotto il 6%, ha dichiarato poco fa l'assessore della sanità della regione Lazio Alessio D'Amato. Chiusa l'aggiornamento quotidiano con la Protezione Civile, devo dare ancora la chiusura invece di borsa, che comunque è positiva per Milano, più 1%, buona rispetto alla giornata, sopra 17.000 punti, più 0,40 Parigi, più 1,20 Francoforte, più 2% Londra, più 0,26 il Dow Jones. Recupera Eni molto, 7,30, Atlantia 7,30, Buzzi Unici 4,30, Fiat più 4 come Azimut, il 3,60 lo recupera Unipol, il 3,60 rialza anche di Diasorin, il 3,5 quello di Telecom Italia, il 3% il rialzo di B per invece cede Prismian il 4,70, Ferragamo il 3,60, Post meno 2,5, Pirelli meno 2,20, Moncler meno 2, Unicredit meno 1,70, Fineco Bank meno 1,5, come banca Mediolanum, Recordati e Campari. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Qualcuno mi chiede del petrolio e dell'oro. Sì, avete ragione, un po' di giorni che non li diamo, sappiamo che erano in grande flessione il petrolio. Oggi il petrolio ha un po' recuperato, ma viaggia a $20 al barile, $20,98 al barile per quello che riguarda il WTI in America, più 4%. L'oro si mantiene a $1,608 all'oncia. Dopo il traffico, la lettera scritta da un insieme di esponenti politici, sindaci, governatori alla Frankfurt Allgemeine Zeitung, le posizioni europee, vediamo anche se prevale lo scetticismo su una garanzia condivisa. Ripeto, i corona bond, eventuali corona bond, non vorrebbero dire che il tedesco o l'olandese paga il mio debito. Io se li uso, si sta ipotizzando anche che vengano utilizzati per cose molto specifiche legate all'emergenza sanitaria, quindi infrastrutture sanitarie e quant'altro, almeno da sgravare. Ma la cosa importante non è che io chiedo agli olandesi di pagare il debito che contraggo per fare infrastrutture, per esempio sanitarie o altro. Si chiede solo che la garanzia su questo debito sia di carattere europeo, in modo che finita la crisi i mercati non si mettano a speculare su chi ha più debito o no, e riviviamo un'altra pagina simile al 2011-2012, quando Angela Merkel disse: non è detto che un paese per forza debba stare nell'euro, e partì la speculazione, se qualcuno se lo fosse dimenticato, sulla Grecia prima, poi su Portogallo e sulla Spagna, poi sull'Italia. E se non fosse intervenuto Mario Draghi, non Christine Lagarde, Mario Draghi, con il famoso whatever it takes, la cui frase più importante non è solo farò tutto quello che è necessario, è l'aggiunta, la postilla, and it will be enough, sarà sufficiente, credetemi, come dire, una minaccia alla speculazione, non ci provate a scommettere contro l'euro. Se non interveniva Draghi, quel copione l'abbiamo già visto, quando la Germania arrivò a ipotizzare l'uscita di alcuni paesi dall'euro, aprendo le praterie della speculazione. Non vorremmo rivederlo, ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Allora, parto da questa lettera che hanno sottoscritto l'eurodeputato Carlo Calenda, ma anche il governatore della Emilia Romagna Bonaccini, il governatore della Liguria Giovanni Totti, ecco perché dico che è bipartisan, il sindaco di Venezia Brugnaro, il sindaco di Genova Marco Bucci, la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, il sindaco di Bologna Merola, il sindaco di Milano Sala, quello di Brescia Del Bono, quello di Padova Giordani, quello di Bergamo Gori, il sindaco di Siracusa Francesco Italia, chiedo venia se non ho dimenticato qualcuno. Che cosa dice la lettera? Vado sulla parte più principale. Vista l'emergenza, 9 stati europei hanno proposto, tra cui Francia, Spagna, Italia e Belgio, hanno proposto l'emissione di Eurobond per far fronte alla crisi. Non si chiede la mutualizzazione dei debiti pubblici pregressi, ma di dotare l'Unione Europea di risorse sufficienti per un grande rescue plan, piano di salvataggio europeo, sanitario, economico e sociale, gestito dalle istituzioni europee. L'Olanda, scrivono sul Frankfurt Allgemeine Zeitung gli esponenti che ho ricordato, l'Olanda capeggia un gruppo di paesi che si oppone a questa strategia e la Germania sembra volerla seguire. L'Olanda è il paese che attraverso un regime fiscale agevolato sta sottraendo da anni risorse fiscali da tutti i grandi paesi europei. A farne le spese sono i nostri sistemi di welfare, dunque i nostri cittadini più deboli, quelli che oggi sono più colpiti dalla crisi. L'atteggiamento dell'Olanda è a tutti gli effetti un esempio di mancanza di etica e di solidarietà. Solidarietà che molti paesi europei vi hanno dimostrato dopo la guerra e fino alla riunificazione, la lettera rivolta ai tedeschi. Il debito della Germania dopo il 1945 era di 30 miliardi di marchi di allora. La Germania non avrebbe mai potuto pagare. Nel 1953 a Londra 21 paesi, tra cui Francia, Italia, Spagna e Belgio, consentirono alla Germania di dimezzare il debito e di dilazionare i pagamenti del debito restante. In questo modo la Germania poté evitare il fallimento. E aggiungo io che quando poi doveva pagare, per esempio la Grecia e ad altri paesi, il debito restante, Kohl si rifiutò, doveva unificare la Germania. Allora, giro il polso della situazione a Lorenzo Codogno, che ex dirigente del Ministero dell'Economia e Finanze e anche visiting professor alla London School of Economics. Buonasera Codogno. Buonasera. Lei ha scritto un articolo con Giampaolo Galli sul Sole 24 Ore di oggi in cui dite: guardate, tutto sommato meglio andare a ricorrere a un MES con delle condizioni molto sbiadite, cioè quindi con dei vincoli molto sbiaditi, che non fare, se ho ben capito, una battaglia sugli euro e corona bond che probabilmente non arriveranno. Però che cosa vuol dire condizionalità sbiadita? Perché io lo dico con il massimo rispetto, non mi fido molto della comprensione, diciamo, dei tedeschi e degli olandesi in questo momento. Allora, diciamo innanzitutto che personalmente sono molto a favore di Eurobonds e di una capacità fiscale centralizzata in Europa. Peraltro ho anche scritto da un punto di vista accademico e il mio coautore è un olandese, quindi voglio dire, ho espresso pubblicamente un forte supporto per questi strumenti. Perché sono contrario in questo momento? Perché spingere, come ha fatto l'Italia, con anche un buon successo diplomatico, perché è riuscito a coinvolgere la Francia, è riuscito a coinvolgere anche altri paesi che in tempi non lontani non sarebbero stati al fianco dell'Italia, certo, come il Lussemburgo o l'Irlanda, in questo momento va molto bene, perché potrebbe spingere ad un impegno futuro per lavorare in tal senso, ma non risolve il problema immediato. Per intenderci, per fare gli Eurobonds bisognerà probabilmente cambiare i trattati, cambiare i regolamenti. Il percorso è abbastanza lungo, è un po' contorto, ci sono problemi di governance, perché ovviamente se si mette insieme il debito pubblico, bisogna mettere insieme anche un budget e ci vuole un'entità politica che lo controlli e lo governi. Quindi diciamo, le cose non sono semplici. In questo momento qui ci sono due problemi. Primo è, se io l'ho chiamata un'assicurazione sulla vita, cioè bisogna evitare la crisi finanziaria, e per far questo c'è solo uno strumento attivabile immediatamente, che è il MES. Attraverso una linea di credito precauzionale significa che forse non verrà nemmeno utilizzata, il MES aprirebbe la strada all'OMT. L'OMT è il cosiddetto whatever it takes di Draghi, ovvero sia un intervento potenzialmente illimitato da parte della Banca Centrale Europea. Ecco, questa combinazione, cioè il MES più l'OMT, di fatto eviterebbe una crisi finanziaria, e la crisi finanziaria, con un rapporto debito-PIL che supera ampiamente il 150% e va verso il 160%, chiaramente il rischio c'è, no? E quindi primo bisogna agire tempestivamente su questo. E su questo punto, cioè una linea di credito precauzionale del MES, anche altri paesi sono d'accordo. Adesso, proprio minuti fa, è uscita una dichiarazione del ministro di finanze olandese Hoekstra, che ha detto che Eurobonds non sono lo strumento corretto, ma ha detto c'è apertura sul fondo salva stati. Lei ha chiesto qual è la condizionalità. Beh, la condizionalità è molto semplice. Basterebbe dire che tutta la spesa, escludendo la spesa sanitaria, che mi sembra evidente che ci sia necessità di rafforzarla in questo momento, però escludendo la spesa sanitaria, tutto il resto della spesa pubblica introdotta in questo frangente deve essere temporanea. Cioè supporto alle famiglie, supporto alle imprese, deve essere limitato nel tempo e entro un anno si torna tutti al punto di partenza. Questa secondo me è una condizionalità molto ragionevole, che permette alla spesa pubblica di salire in maniera anche molto consistente, perché è giusto che in questo momento salga e cresca e dia supporto all'economia, ma allo stesso tempo che sia limitata temporalmente in modo tale che non diventi un problema di fondo per la sostenibilità delle finanze. Quindi, se ho ben capito, Codogno, lei dice è troppo difficile immaginare, anche per la governance, cioè per i meccanismi di funzionamento, corona bond o euro bond. Abbiamo già il MES. Se si riuscisse a trovare un accordo su pochissime condizioni, non quelle previste inizialmente, che partivano dall'idea che fosse colpa dello Stato se vai in difficoltà finanziaria e quindi io ti commissario in parte, ma qui non è colpa di nessuno, e basterebbe, diciamo, una condizionalità bassa con diciamo, l'idea di ok, sono misure che tu puoi usare al di là degli investimenti infrastrutturali in sanità, puoi usare per un tempo molto breve, quindi se sono aiuti a, per esempio lo Stato non incasserà perché sta posticipando le scadenze fiscali, i contributi li dovrà versare, tutto un insieme di cose, va bene, se, diamoci un arco temporale fino, dico io, il 1 marzo del 2021, e poi non li usi più, ho capito bene? E questa dovrebbe essere l'unica garanzia richiesta? Sì, esattamente, cioè fare in modo che la spesa sia di qualità elevata, che sia una spesa fatta per sostenere le famiglie e le imprese in questo momento, certo, molto difficile, ma che sia comunque limitata nel tempo, cioè tra un anno si torna al punto di partenza. E lei che speranze dà a questa ipotesi? Di là del... Ma io penso che su questo ci siano importanti aperture, c'erano già state in Germania, ripeto, poco tempo fa, appena pochi minuti fa addirittura, c'è stata un'importante apertura anche dal ministro delle finanze olandese, e penso che su questo si possa lavorare. Ripeto, questa è l'assicurazione vita per l'Italia, è l'assicurazione per eliminare il rischio di crisi finanziaria. Poi c'è un altro lavoro che è molto importante e che non è così urgente, che è quello di mettere in piedi gli strumenti più adatti per un grande piano di rilancio dell'economia europea, e questo si può fare attraverso la Banca Europea per gli investimenti, che ha dei fondi ad hoc, che emette obbligazioni che peraltro sono già di fatto Eurobonds, ma sono obbligazioni specifiche per dei progetti specifici, e su questo l'Italia può trovare immediatamente l'accordo anche di altri paesi. E qui c'è appunto la necessità di una grande progettualità, come far uscire l'economia europea da questa situazione con un grande progetto di rilancio dell'economia. Questo è il punto. Quindi, tornando al discorso iniziale, adesso siamo nella fase 1, non far uscire i soldi dalle tasche degli italiani posticipando le scadenze fiscali, far entrare dei soldi di emergenza nelle tasche degli italiani, i 600 euro che poi dovrebbero diventare 800, la cassa integrazione in deroga, e mantenere, come si diceva prima con la direttrice di Confindustria, mantenere la liquidità delle aziende che hanno bisogno di circolante per i pagamenti ai fornitori e via così. Questa è la fase emergenziale 1. Poi, se ho ben capito, lei dice c'è la fase 2 in cui noi dovremmo avere, siccome aumenterà il debito, una copertura su questo aumento del debito, se no diveniamo preda della speculazione, lì uno potrebbe ricorrere al MES come garanzia, se il MES avesse come condizioni solo quella di, diciamo, della durata temporale breve di un anno. E poi c'è la fase 3, la chiamo io, in cui l'Europa deve capire se attraverso la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, riesce a fare un piano Marshall interno, cioè in cui tu inizi a finanziare tutto un insieme di investimenti infrastrutturali per fare o nei settori, anche perché i governi non avranno più questo margine, aggiungo, perché avranno già il debito al 150-160% del PIL, per quanto con l'eventuale copertura del MES. Grazie anche a Lorenzo Codogno in collegamento con noi da Londra. Due notizie in breve prima di chiudere. La prima riguarda i dati che ho appena letto. Guardate che arrivano le conferme che il CTS e quindi il Comitato Tecnico Scientifico Roberto Bernabei ha detto poco fa: c'è una diminuzione anche nell'incremento dei ricoverati, erano 1.276 in più il 26 marzo, ieri erano 409 in più rispetto al giorno prima, oggi 397. Questo è importante, sono d'accordo con chi dice che bisogna vedere i ricoverati, perché è la tenuta del sistema sanitario che ci interessa. L'incremento giornaliero dei pazienti in terapia intensiva era di 120 pazienti in più rispetto al giorno prima, il 26 marzo, è di 42 pazienti in più oggi, quindi si sta oggettivamente appiattendo la curva dei ricoveri e dei ricoveri in terapia intensiva, cosa fondamentale per non far collassare il sistema. Due notizie invece di carattere finanziario. Poco fa abbiamo saputo che dentro il gruppo Pirelli è entrata la Brembo di Bombassei con una quota del 2,4%, invece il gruppo Ferrovie dello Stato ha diffuso i dati sul 2019, l'utile è salito a 584 milioni, i ricavi più 3%, l'utile è salito del 4,5%, certo è un altro mondo fa, ma almeno il bilancio delle Ferrovie dello Stato nel 2019 si è chiuso con un aumento dell'utile. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata.